Salva Danaio di Deborah Rosciani. Anche oggi siamo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. Come abbiamo già detto ieri, saremo qui con diversi programmi fino a domenica prossima, 3 giugno, per seguire anche noi l'importante obiettivo di questa manifestazione, che come ogni anno è quello di creare occasioni di incontro fra economisti ed esperti e il grande pubblico per comprendere insieme i temi economici e farlo anche in un'ottica particolare, un punto di vista che è stato scelto proprio per questa edizione. Si tratta dei rapporti fra le generazioni, sempre più in discussione in un periodo che vede molte differenze fra le vite dei nonni e dei padri e quelle dei figli e dei nipoti. Una vera alleanza fra le generazioni passa anche dalla ricerca e dalla conoscenza condivisa di un sistema che sappia, da un lato, valorizzare la longevità e dall'altro offrire opportunità ai giovani. Noi abbiamo scelto di affrontare un punto particolare, un punto specifico, un ambito anche importante e delicato, ma anche molto complesso. Le donazioni e le successioni è un ambito che spaventa un po', che coinvolge affetti e dinamiche a volte spinose, radicate nelle nostre famiglie. Forse è questo il motivo per cui spesso gli italiani tendono a non regolamentarlo con anticipo. I nostri esperti oggi ci aiuteranno a saperne di più, risponderanno alle vostre domande, ci aiuteranno a raccogliere molti consigli utili a questo proposito. Come sempre, dunque, potete chiamarci all'800 24 00 24. Avete già avuto a che fare con questo complesso mondo, con questi due istituti giuridici, la successione e la donazione? Quali sono i vostri dubbi? State meditando di regolare eventualmente una donazione in casa vostra, ma non sapete dove iniziare? Allora raccontatecelo questa mattina. Tra l'altro l'argomento è stato oggetto anche di un convegno, uno di quelli che hanno aperto i lavori del Festival dell'Economia, donazioni e successioni, i consigli dei notai. Noi ne abbiamo uno questa mattina, già venuto frequentemente nella nostra trasmissione, notaio in Vicenza, Giovanni Rizzi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. E per raccontarci anzi che cosa ne pensano le famiglie e i consumatori, i risparmiatori, diciamo, di questo complesso argomento, abbiamo invitato anche Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, buongiorno. Buongiorno. Anche perché, questo lo dobbiamo ricordare, le associazioni dei consumatori in questi anni hanno attivamente collaborato con l'organizzazione che rappresenta le figure dei notai, insieme hanno condiviso alcune esperienze di divulgazione nei confronti dei consumatori, scrivendo insieme molte guide, l'ultima delle quali sarà pubblicata a breve, ma esiste già quella sulle donazioni. Magari, presidente Longo, vogliamo già anticipare appunto quando uscirà questa guida e come potrà essere reperita dai nostri ascoltatori? Sì, la guida sulle donazioni sarà disponibile sul sito www.notariato.it e sui siti delle associazioni dei consumatori che hanno contribuito a redigerla già fra 2 settimane, esattamente dal 15 giugno verrà presentata, e poi ciascuno che sarà, chiunque fosse interessato, potrà scaricarla dal sito notariato.it, dai siti delle associazioni. È una serie di guide, questa che andiamo a pubblicare, ormai credo che sia la 10ª, la 11ª, ne abbiamo fatte parecchie, molte delle quali hanno toccato soprattutto un problema importante per ogni famiglia italiana, la casa. Quindi come si fa il mutuo informato, il prezzo valore, il preliminare di vendita, comprar casa senza rischi, ne abbiamo chiamata una. Insomma, consigli utili, consigli immediati, naturalmente poi da interpretare e da realizzare attraverso l'aiuto del notaio. Ecco, questa collaborazione tra il Consiglio Nazionale del Notariato e 11 associazioni consumatori ormai data diversi anni ed ha prodotto questi utili strumenti. Super consolidata. Allora, ho già invitato i nostri ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24, ma anche a scriverci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it e anche, se volete, sul profilo Facebook potete scrivere le vostre indicazioni e le vostre domande. Il nostro profilo è salvadanaio-radio24. Solo un minuto di tempo dedicato alla borsa, perché gli indici stanno peggiorando di minuto in minuto, a vista d'occhio. Milano sta perdendo 1 punto percentuale, Parigi -1,62, Francoforte oggi bersagliata dalle vendite perde 2,5 punti, paradossalmente Madrid è la più tranquilla, -0,20, l'euro sul dollaro continua a scivolare, siamo arrivati a 1,23,18, quindi stiamo addirittura andando a toccare un'altra soglia di ribasso molto importante, 1,23, e i temi di Piazza Affari sui quali il mercato oggi si concentra in termini negativi: Tenaris e Fiat Industrial che perdono 5,5 punti, Saipem -3,89, STM -3,77, -3,5 punti per Prismian, -3 per Mediaset, Pirelli, Mediolanum -2,8 per A2A. E invece in forte movimento la Galassia Generali Mediobanca, Generali +5%, Mediobanca +3,26, come dicevamo già nel giornale radio, per Generali domani consiglio di amministrazione straordinario, Mediobanca chiede un riassetto ai vertici del Leone di Trieste, Mediobanca non è contenta dei risultati, ma probabilmente dietro a questo c'è sicuramente dell'altro. Mediobanca, come sapete, il luogo dove si decidono gli assetti azionari dei grandi colossi industriali e finanziari del nostro paese. Per Generali evidentemente è tempo di proporre un altro cambiamento. Ne parleremo sicuramente diffusamente nei prossimi giorni, ma io la borsa oggi vorrei lasciarla. Lo spread è molto alto, ce lo chiedono alcuni ascoltatori, siamo a 474 punti base. Notaio Rizzi, allora questa mattina avete avuto questo convegno, appunto, quali sono le domande che si stanno facendo in questo momento le famiglie italiane? Noi raccontavamo a microfoni spenti, può sembrare un aspetto folcloristico, ma alla luce dell'inasprimento della tassazione nel nostro paese, che è andata a coinvolgere anche notevolmente il patrimonio immobiliare, è ritornata l'IMU, sulla seconda casa è molto pesante, le famiglie stanno decidendo già come riorganizzare patrimonio immobiliare in famiglia utilizzando questi due istituti, successione e donazione? Sì, certo, la donazione sta rivivendo una nuova primavera, tra virgolette. Ricordiamo che precedentemente l'ICI c'era una norma che era stata adottata da quasi tutti i comuni per i quali il comodato ai figli delle case di abitazione veniva equiparata a prima casa, quindi era non soggetta ad imposta, perché negli ultimi anni l'ICI prima casa proprio non si pagava. Questa regola non è stata riprodotta invece per la nuova IMU, per cui la seconda casa dei genitori, che viene abitata però dai figli, che quindi è abitata dai familiari, comunque viene considerata ai fini dell'IMU come a tutti gli effetti come prima una seconda casa. Ah, la seconda, sì. Quindi con lo 0,76 su base nazionale, ma sappiamo che ormai tutti i comuni si stanno orientando ad aumentare questo 0,76 e si arriva fino addirittura all'1,06. Ragione per cui molti si stanno spingendo. Possono aumentare di uno 0,3% per la seconda casa. Si possono sì, esattamente. E quindi molti si stanno fatti i conti alla mano, si sono accorti che ci sono cifre veramente considerevoli su base annua da pagare per questa nuova IMU. C'è veramente molta richiesta adesso di donazioni, ci sono molti che si erano ad esempio già donato la nuda proprietà ai figli, ma si erano riservati l'usufrutto per una sorta di controllo che i figli non facessero delle stupidaggini. Adesso si è rivoltato come un boomerang questo usufrutto, perché chiaramente ricordiamo che l'IMU, come le imposte sui redditi, devono essere pagati dall'usufruttuario, non dal nudo proprietario, per cui il genitore che è già alla sua casa e sulla casa abitata dai figli si era riservato l'usufrutto, questo usufrutto significa seconda casa ai fini IMU, quindi 0,76 o aliquota più alta. Quindi donazioni di usufrutto oppure anche donazioni proprio di proprietà, se i genitori si hanno finora riservati la proprietà anche della casa dove abita il figlio, in previsione poi di un fenomeno successorio di rinviare tutto al momento della successione. Oggi c'è un po' la corsa ad anticipare i tempi per motivi proprio fiscali. Antonio Longo voleva intervenire, Presidente sì, del Movimento di Difesa del Cittadino. Volevo anche aggiungere che la situazione delle famiglie italiane è oggi molto diversa da quella che era 30, 40, 50 anni fa. Pensiamo un po' alle famiglie di fatto, alle famiglie allargate, i genitori che si separano, scelgono nuovi compagni, convivono con questi nuovi compagni, fanno figli, altri figli, oltre a quelli del primo matrimonio. Quindi gli assi ereditari si allargano, si complicano, sono subentrate anche le badanti in alcune situazioni a complicare la situazione. Quindi insomma c'è necessità di essere informati, di saper bene a cosa si va incontro e quindi di scegliere bene. E quindi questi due ordinamenti, notaio Rizzi, andrebbero secondo lei aggiornati? Ma per quanto riguarda il discorso delle successioni, certamente sì, c'è bisogno di un aggiornamento. Oggi norme come quelle del 458 del Codice Civile sul divieto dei patti successori è una norma che aveva un senso. Ce magari lo spiega in termini semplici che cosa vuol dire questo divieto? Significa in termini semplici, se i genitori si vogliono mettere intorno a un tavolo oggi con tutti i loro figli e stipulare un contratto con cui già stabiliscono oggi come verranno ripartiti i beni, già attribuendo magari dei beni da subito a altri per dopo la morte, e tutti firmano e dichiarano d'accordo in modo che non ci siano poi rivendiche successive, questo tipo di contratto, che è possibile in altri ordinamenti, da noi non è possibile, mentre oggi è fortemente richiesto proprio da parte di tutti i cittadini di poter non rimandare dopo la morte magari controversie, liti tra i figli, ma già vivendo i genitori mettere un nero su bianco su tutte le vicende successorie. Il patto successorio in questi termini non è possibile, no. Ma se un genitore in vita disponesse con un testamento regolare invece la distribuzione dei beni una volta che lui non ci fosse più, questo si può fare anche se la forma fosse identica. No, ma il problema grosso è questo, che nel nostro che nelle situazioni più frequenti abbiamo il padre che è proprietario di determinati beni, la madre è proprietaria di altri beni. Allora i beni che sono attualmente di proprietà del padre dovrebbero andare a un figlio X, quelli della madre all'altro figlio. Ecco, questo viene perché nel comune opinione viene considerato i beni del padre e della madre come un unico patrimonio familiare, ma purtroppo ai fini successori non è così. Quindi se prima muore il padre e va tutto a un figlio, lì c'è una lesione della legittima dell'altro figlio, e così viceversa, quando morirà la madre va tutto a un figlio e niente all'altro, c'è una lesione illegittima, quindi con possibilità che nascano delle liti tra quei figli. Notaio, chissà quante ne vede lei nei suoi uffici tutti i giorni. Sì, questi sono argomenti. Sono ancora terreni di altissima conflittualità familiare questi? Sì, possono dare. Io devo dire per la verità che nella stragrande maggioranza di casi, per fortuna, le famiglie, i figli poi accettano a volte anche magari delle ingiustizie palesi per quieto vivere, eccetera. Però molte volte invece si sfocia poi nella lite giudiziaria con tutti gli strascici che ne basti derivano. Ricordare un caso clamoroso del quale abbiamo letto tantissimo negli ultimi anni, quello di Margherita Agnelli, che ha chiesto il completo ridisegno di tutta l'eredità lasciata da Gianni, appunto. No, avvocato Longo. No, volevo aggiungere anche una cosa sulla quale molti cittadini, me compreso fino a poco tempo fa, siamo tutti tranquilli. Allora, un genitore regala 50-100.000 euro al figlio o alla figlia per comprare un appartamento quando si sposa. Uno pensa che questo possa essere un atto di liberalità senza conseguenze, e invece no. Il notaio Rizzi ci può spiegare come questa donazione, questo regalo matrimoniale o comunque quando il figlio o la figlia vanno a vivere di 50-100.000 euro va calcolato e puntualizzato per l'eredità, vero notaio? Esattamente, questa è una vera e propria donazione che fra l'altro normalmente risulta giuridicamente nulla, perché non viene mai fatta per atto pubblico notarile, mentre tutte le donazioni per legge dovrebbero risultare da un atto pubblico notarile alla presenza di testimoni, ragion per cui si tratta di donazioni nulle sotto profilo formale, in cui si realizza in realtà una liberalità indiretta, cioè funziona così il meccanismo: la donazione è nulla, quindi il donante ha un diritto di credito verso il donatario alla restituzione della somma, perché si basa su un titolo nullo. Normalmente il donante rinuncia a questo suo credito o con un atto espresso oppure lasciando decorrere il termine, che è 10 anni prescrizionale, ed è proprio in questa rinuncia al credito, alla remissione del debito, che consiste la donazione indiretta, che comunque va considerata ed entra nel calderone del patrimonio per calcolare le quote di legittima, di cui bisogna tener conto per la legittima. Allora, ci fermiamo perché adesso abbiamo il nostro primo blocco pubblicitario, però possiamo provare a sentire già la domanda di Bruno dalla provincia di Teramo, così gli rispondiamo, ci pensiamo, ci riflettiamo un attimo sulle cose giuste da dire al nostro ascoltatore, però lo faremo nella seconda parte. Bruno, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci sente bene? Sì, la sento. Buongiorno e fate delle trasmissioni meravigliose. Grazie Bruno, ci dica tutto. Allora, io la mia domanda era questa: io voglio lasciare, io sono un nonno, un unico nipotino, e voglio donarle una casa in minore, se posso farlo o no. Prima, se è possibile fare la donazione, puoi vedere le criticità di questo tipo di donazione. È possibile certamente farla, essendoci un minore che è beneficiario, ovviamente bisogna che i genitori del minore, quindi coloro che ne hanno la potestà e la legale rappresentanza, si facciano autorizzare dal giudice tutelare, quindi bisogna fare un ricorso al giudice tutelare, che normalmente quando si tratta di donazione autorizza senza problemi. Teoricamente potrebbero opporsi i genitori dicendo facciala subito questa donazione, passaggio di proprietà, in modo tale che ne possiamo beneficiare noi? Subito no, perché la volontà del nonno è di dare la donazione al minore. Loro potrebbero opporsi solo dicendo magari il bene è un bene in condizioni tali che richiede più spese che non vantaggi, quindi non sarebbe un'operazione vantaggiosa per il minore. Altrimenti non potrebbero dire no, non lo facciamo perché vogliamo avvantaggiarci noi. Una volta che i genitori abbiano optato per il sì e si facciano autorizzare e accettano la donazione, poi rimane il problema: questa donazione qual è la sua criticità? Allora, se questo era l'unico bene di questo nostro ascoltatore e lo dà solo al nipote, ovviamente ci sono dei figli di mezzo, perché se c'è il nipote, questi figli potrebbero poi impugnare questa donazione per lesione della legittima, perché la legittima aspetta ai figli, non ai nipoti. Nella misura di un terzo, se non mi ricordo male. Dipende, se chi muore muore lasciando anche il coniuge, la quota disponibile è un quarto aspetta al coniuge, due quarti ai figli sono più figli, oppure se c'è solo il coniuge e un figlio, è un terzo al coniuge, un terzo al figlio unico, un terzo. Quindi dipende dalla composizione del nucleo familiare, diciamo. Esattamente, dipende molto da com'è il nucleo familiare al momento della morte del soggetto, del donante. Del decuius, un po' di cose le ho imparate. Quindi, in questi anni, un po' complicate anche. Sicuramente si può fare, ripeto, con l'autorizzazione del giudice, però rimangono sempre poi gli aspetti che questa è una donazione, almeno che il nostro ascoltatore non abbia un patrimonio, oltre a questo immobile che intende donare al minore, talmente ampio e vasto da coprire con gli altri beni o perché ha fatto altre donazioni le quote legittime degli altri, perché c'è sempre questa famosa quota disponibile, un quarto, un terzo, quello che lui può darla a chi vuole. Certo. Quindi se questo bene dovesse rientrare nel quarto, nel terzo, a seconda poi dei casi, certamente questa donazione poi non avrebbe nessuna criticità. Tra l'altro, invece, il caso di Loredana da Treviso, come dire, riprende un po' una conversazione che stavamo facendo a microfoni spenti su, per esempio, donazioni fatte in passato di cash in contanti, no? Presidente Longo, sì, come dicevo, possono essere... Dicevo, se il padre regala 100 milioni per l'acquisto dell'appartamento del figlio e della figlia che si sposano, 10-15 anni prima della morte, poi dopo, a un certo punto, questi soldi utilizzati dal figlio e dalla figlia per comprare un appartamento entrano nell'asse ereditario, e se entrano, con quale valore? Il valore nominale dei 100 milioni o 100 mila euro o il valore della casa al momento dell'apertura della successione? Certo, allora, perché può esserci anche un momento particolarmente brillante per il mercato immobiliare che rende questo asset... Allora, nel caso dell'ascoltatrice, adesso qua bisognerebbe un po' capire quella che era anche la consistenza del patrimonio del padre quando gli ha fatto questa donazione, perché in realtà questa della cucina io la vedrei più rientrare in quella norma del codice delle liberalità d'uso, cioè quelle liberalità che si fanno secondo le regole sociali, eccetera. Quindi il genitore che quando si sposa un figlio fa un regalo, e normalmente un regalo di una certa consistenza, che non sono considerate donazioni, quindi non vengono considerate ai fini della terminazione del famoso patrimonio di unione fittizia ai fini della legittima, per cui adesso gli altri eredi non dovrebbero poter far valere nessuna pretesa su quelle che sono le donazioni di modico valore e le liberalità d'uso, ripeto, quelle che si fanno secondo quella che è una prassi in voga in determinati ambienti. Normalmente i genitori, quando si sposano i figli, fanno sempre dei regali, e dei regali anche importanti. Questo, ecco. L'altro discorso invece, se la dazione è una dazione molto più consistente, ad esempio la somma che il genitore dà al figlio, anzi dai 100.000 euro, gli fa un bonifico bancario sul conto del figlio, perché adesso una volta li davano in contanti, adesso non è più possibile, quindi tutto deve essere tracciato attraverso movimenti bancari, fa questo bonifico dei 100.000 euro e poi questi 100.000 euro vengono usati dal figlio, anche qua ci sono tutte le tracce bancarie che lo dimostrano, per acquistare di un immobile. Questa è una liberalità indiretta che va considerata sia ai fini della collazione, cioè quella operazione che si fa in sede di divisione ereditaria nell'apporzionamento delle quote degli eredi che vanno in divisione, sia ai fini della legittima. E qua c'è tutta una giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione che ritiene che se questa somma di denaro è stata donata con la finalità espressa di acquistare un immobile, al momento dell'apertura della successione si tiene conto non della somma di denaro data, ma del valore dell'immobile che è stato acquistato con questa, perché si ritiene che la vera intenzione del genitore era quella di utilizzare questa somma per comprare l'immobile e donare di fatto l'immobile. Allora, vi leggo questa mail che ci arriva da Facebook da parte di un'ascoltatrice che chiede se sia possibile che venga depositato un testamento presunto falso, depositato dall'erede nominato nel documento, mentre dall'altra parte gli eredi legittimi, ci ricostruisce un po' il suo caso questa ascoltatrice, verificata la falsità del documento tramite perito calligrafico del tribunale, non sanno se aprire la successione o meno. Ma io mi chiedo anche, ma come si fa a stilare un testamento falso? È un atto complesso, ci no. Si può rivolgere a notai non proprio... Qua bisogna dire se l'atto, perché qua parla di perito calligrafico, quindi non siamo nel testamento pubblico notarile, perché non si fa nessuna perizia calligrafica, l'atto pubblico fa querela fino a prova di falso, bisogna dimostrare proprio che è stato compiuto un falso dal notaio. Questo è il caso invece molto più diffuso del testamento olografo. Il 95% dei testamenti sono testamenti olografi, non sono testamenti pubblici, cioè redatti e scritti di proprio pugno dal testatore. Questo è il requisito richiesto dal legislatore. Esistono ancora, notaio, casi di questo tipo in cui si ritrovano testamenti in fondo a dei cassetti nelle abitazioni? Certamente sì. Ci sono ancora casi di questi generi, testamenti che magari compaiono dopo anni e anni. Mi raccomando, fateli comparire entro 10 anni dalla morte, sennò poi si va in prescrizione il diritto di accettare l'eredità, se chiaramente è un altro soggetto, quello nominato, che non aveva mai accettato. Comunque, il testamento olografo, la condizione di sua validità sono 3 sostanzialmente: deve essere tutto scritto di proprio pugno dal testatore, firma del testatore e data. Le prime 2 requisiti, l'olografia e la firma, sono a pena di nullità, quindi se non è stato scritto di tutto pugno dal testatore e firmato, quel testamento non ha nessuna validità. Ecco perché ci sono molte, diciamo, contestazioni quando c'è testamento olografo, proprio sulla riconducibilità di quel testamento al testatore, che non sia un falso. Quindi il notaio, quando riceve questo tipo di testamento, perché chiunque può portare al notaio un testamento olografo, il notaio deve pubblicarlo, non è compito del notaio verificare se è un falso, se non è un falso. Addirittura il notaio può pubblicare un testamento che appare nullo, cioè privo della firma o dell'autografia. Perché può essere anche convalidato, certo, il testamento. Notaio, quando lei utilizza il termine pubblicarlo, significa renderlo pubblico, renderlo a tutti pubblico, i diretti interessati? Cioè, quel pezzettino di carta su cui è scritto il testamento viene allegato a un verbale notarile, che appunto dà atto che viene allegato questo testamento, a questo atto notarile, viene sottoscritto dal notaio, da 2 testimoni e dal richiedente, in modo che poi possano essere registrato e possano essere rilasciate copie in forma autentica di questo testamento allegato al verbale. Ecco, il notaio deve assolutamente riceverlo, anche se appare proprio nullo perché manca la firma, l'autografia. Io ne ho pubblicati anche battuti a macchina, nulli, perché poi gli eredi, cioè tutti coloro che i controinteressati, cioè quelli che sarebbero stati chiamati l'eredità per legge senza quel testamento, possono comunque intervenire o davanti al notaio a dichiarare che per loro sta bene le volontà del testatore. Ecco, ed è successo. Quindi ci può essere un'accettazione serena, anche se il documento non è conforme, diciamo, a quanto stabilisce la legge. È una delle poche ipotesi nel nostro ordinamento in cui è possibile sanare una nullità, proprio perché non c'è più l'autore di quell'atto che possa rifarlo. C'è il cosiddetto favor testamenti del nostro ordinamento. Benissimo, il favor testamenti. Notaio Longo mi veniva a chiamarlo, presidente. Faccio io una domanda al notaio sulla base di quelle mutazioni familiari che si dicevano prima. Se io faccio io sono separato, divorziato, convivo con una compagna, posso fare una donazione a questa compagna in presenza di figli? Oppure un caso che in ogni presenza tanto... di figli della seconda compagna o della prima? Del donante. Figli miei. Sì, avuti con la prima moglie. Con la prima, diciamo, compagna. Che cosa succede? Oppure un altro caso che ogni tanto leggiamo sui giornali, l'anziano signore o l'anziana signora, per pari diritti, fanno una donazione, un regalo di un appartamento, di una cifra cospicua di soldi, a un badante o a una badante. Diciamoci chiaramente che il secondo caso che lei ha citato è molto meno frequente e diffuso sui giornali. Diciamo che c'è la proprietaria della L'Oreal in Francia. Ma c'è solo quel caso là, però, presidente Longo. Allora, notaio Rizzi, se ce la fai in un minuto, poi andiamo. La donazione certamente si può fare anche a persone non collegate da un vincolo di parentela o di affinità. Sarà un problema fiscale perché è particolarmente costosa, perché un atto di questo genere, di un immobile, conta l'11% sul valore, 8% di donazione più 3% di trascrizione catastale. Poi c'è sempre l'altro piano, il piano della criticità. È chiaro che se il valore di questo immobile rientra nella famosa quota disponibile, nulla questio, quella donazione non sarà impugnata da nessuno e rimarrà in piedi. Se chiaramente con quella donazione io vado a incidere le quote di legittima dei miei figli, quella donazione potrà, non è detto che dovrà, ma potrà, dopo la scelta spetta ai figli, essere impugnata entro i 10 anni dalla morte del donante. Rendere pubblico un testamento, un atto molto semplice e basico, quanto può venire a costare ad un contribuente, ad una persona, un cliente che si rivolge a voi? Costa più di quelle che sono le imposte. Molto spesso, come quando c'è la compravendita della casa, la persona pensa sempre che sia tutto denaro che va a voi, invece voi fate da intermediari. Esattamente, perché poi in quello che si lascia al notaio ci sono anche parte delle imposte, quindi 168 di imposte di registro, registro, 156 di bolli, eccetera, poi se va trascritto, eccetera, perché c'è un legato oppure c'è un'accettazione. Il notaio mediamente per una pubblicazione del testamento, poi dipende dal tipo di lavoro che viene richiesto, se c'è anche in più un'accettazione di eredità, eccetera, può variare dai 500 ai 1000 euro, a seconda se insieme alla pubblicazione può esserci anche una acquiescenza, ad esempio intervengono tutti i soggetti per rinunciare all'azione di riduzione e rendere quindi poi inattaccabile il testamento se c'è un'accettazione di eredità. Poi sui costi dei notai potrei stare qua ore a dire, non è la giornata per aprire questa parentesi, e comunque anche per far capire agli ascoltatori appunto quello che c'è dietro al vostro lavoro. Poi tutto si può sicuramente migliorare, sicuramente una battaglia che si può anche fare, però questa la lasciamo in altre sedi e non ci interessa questa mattina. Presidente Longo. Rapidissimo, stiamo definendo insieme con i notai una carta dei diritti, diciamo si chiama la carta dei servizi, insomma, in modo da definire delle regole condivise tra notai e associazioni consumatori. Può essere un contributo proprio a una maggiore trasparenza anche dei costi. Anche sulle tariffe. Sentiamo Paolo da Siracusa, se ce la facciamo. Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci racconti. Allora, io ho un conto corrente cointestato con i miei tre figli. Sì. Tutte e quattro possiamo prelevare e versare qualsiasi cifra. Poi l'amministrazione interna alla famiglia l'abbiamo noi personalmente, ognuno per i fatti loro. Se uno preleva 300.000, 400.000 da questo conto corrente per comprarsi una casa, cosa che può fare tranquillamente, a che cosa va incontro? C'è il fisco? Allora Paolo, sì, può sembrare teoricamente una situazione molto semplice, un conto corrente condiviso, ma mi pare che le cifre che transitino su questo conto corrente siano piuttosto importanti, sì, tali per cui forse un po' di chiarezza va fatta, notaio. Intanto ricordo che la tutela dei conti correnti arriva a 100.000, quindi non lascerei un conto corrente più di 100.000. Diversificherei. O farei tanti conti correnti in banche diverse. Ha evocato il fondo interbancario di tutela dei depositi il notaio questa mattina. Non ce lo evochi, perché non ci piace parlare di questo argomento, notaio, comunque. Allora, al di là di questo è chiaro che se viene dimostrato che da questo conto un soggetto preleva una somma e lo utilizza a propri fini personali, ci possono essere vari problemi non solo successori ma anche immediati, nel senso che se questo conto è intestato a quattro persone, la presunzione è che i denari che ci sono dentro sono esattamente divisibili per quattro. Per cui o io prendo una somma che corrisponde esattamente al mio quarto, ma poi non potrò più pretendere nulla sulle restanti somme, o se vado a prendere anche le somme degli altri, ci potrebbero essere anche problemi poi nei rapporti con gli altri fratelli, perché potrei prendermi anche una denuncia per appropriazione indebita, perché mi sono prelevato i soldi che non erano di mia competenza. Ma perché ognuno, visto che comunque sono così tanto indipendenti all'interno di questo nucleo familiare, non si rendono tali a tutti gli effetti? Poi, però sono delle se hai visto invece nell'ottica successoria, cioè di dire vengono prelevati i soldi, ma c'è un riconoscimento da parte di tutti i figli che in realtà quei soldi erano del padre, c'era una intestazione, diciamo così, di tutti, ma in realtà i soldi quelli erano solo del padre. È chiaro che se uno ha prelevato una somma e poi muore il genitore, di quella somma si dovrà tener conto nel calcolo sempre delle quote ereditarie, delle quote di legittima, perché è stata a tutti gli effetti una acquisizione, quindi una liberalità indiretta fatta dal genitore che non si è opposto al prelievo di questi 400.000 di soldi suoi. Siamo alle pillole curate in collaborazione con l'INPS per capire i meccanismi dell'ultima riforma delle pensioni. Oggi parliamo dei casi in cui non scattano le penalizzazioni per chi vuole andare in pensione prima dei 62 anni di età. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con l'INPS. È vero che ci sono casi in cui non scattano le penalizzazioni per chi va in pensione anticipata sotto i 62 anni? Sì, è vero. Il taglio dell'importo della pensione anticipata dell'1 o del 2%, a seconda degli anni mancanti rispetto alla regola dei 62 anni di età, non scatta per coloro che maturano i requisiti per questo tipo di prestazione entro i prossimi 5 anni, fino al 31 dicembre 2017, a condizione che i contributi siano effettivi e, dunque, derivanti da lavoro, includendo tra questi, in ogni caso, anche quelli che coprono i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia o per cassa integrazione guadagni ordinaria.